4A. Ascolta e trasforma. So guidare. Sappiamo guidare. So nuotare. Sappiamo nuotare. So ballare. Sappiamo ballare. Non so sciare. Non sappiamo sciare. Non so cucinare. Non sappiamo cucinare. Non so aspettare. Non sappiamo aspettare.